No, ma ok, metto un palo, allora sì, lo prendo, allora si può fare, se no diversamente no. Non c'ho tetto, capito? Non posso avere tetto degli altri. Roger, il palo, io ho il palo di 6 metri, ce l'hai visto? L'ho appeso, l'ho allargato, al muro rovesciata. Infatti l'ho già aggiustato il filo, adesso come c'è tempo buono salgo su e l'ho ripiato. Ma io non posso cercare Gianni, non so se sono andato a mangiare, ci sei, va, muore, si è passato il miele di Sassari, travolto la motocarrozzella. Oh vabbè, prima allora tutto bene, sì, tutto ok, tutto a posto. Sì, tutto a posto, guarda, questo tempo mi ha scocciato. Freddo, vento, pioggia. E adesso sono a casa, mi sto seguendo qualche problema di politica e poi la mattina vado al circolo. Magari comprendi di politica, magari comprendi. Ma per me no, fine. Manco, ma sogno. Che cosa vuoi fare? Qua almeno a vedere come va l'Italia. Ma sono tutta una massa di lazzaroni, sono lì. Ma voi è finita. Già da avere un sì. Ma quello che stavo io è il 140. Allora, è attivo fino a... No, non credo. No, forse no. No, è un altro. A Franco l'avevo dato. Ma quello di Daniele? No, negativo, non è quello. No, se non te l'ha dato Franco, quindi non è quello. Già da me. Qua stavo dicendo, sta pieno Claudio, non ho più sentito neanche a lui. Claudio entra poco. Ma è una gana, no, non c'entra neanche. Non ha gana, non ha pure, c'è una fame, è ora di far visita un po'. Capito, non è a Puglia. Aspetta un attimo, ecco qua. Vabbè, com'è il tempo lì all'albero? Freddo? Stamane erano 5 gradi. Stamane 5 gradi c'era un po' di freddo. Anzi, no, qua sto dicendo 8 gradi, non 5 gradi, le minime. Poi le massime, grosso modo mi pare che erano una diecina. Freddo c'è comunque. Adesso ha girato a maestrale, c'è un po' di vento. Era la medica la temperatura, qua c'era un vento stamattina, mamma mia. Roger, a me il vento dell'altro giorno me l'ha buttato addirittura il filo, ma strano, pensavo che siccome l'avevo tirato su col filo di lenza da pesca, quella grossa, quella non si è tagliata, addirittura si è tagliato il filo grosso del filare. È stato molto forte il vento, che è una cosa allucinante. Meglio. No, 5. Aspetta un attimo, si gira il canale qua. Ecco qua. KK. È un casino. Ma non c'è nessuno che il vento. Ah, Mario Mazzi gli ha buttato giù l'antenna il vento. Infatti, ma guarda, la mantova ha resistito, strano, mi filare, pensavo che, ma la mantova è ancora in su, e stazionarie, sono una fesseria come stazionaria, e una e uno mi pare neanche, uno e si sposta appena, ma l'altra mi dispiace perché ogni tanto entravo lì, sono entrato con la mantova, ma non... Santiago 9, 9,5, più di tanto non mi dà. invece col filare arrivavi anche 9.10, 9.20, 9.40 secondo la propagazione. No, guarda, devi mettere, lo sai qual è la frequenza? Sì, 5, poi 8, 5, 0, 0. Aspetta, me lo segno. Sì, 5, 8, allora, dietro molto. Sì, 58 0 0 0 ce ne sono due, due ziri, o altrimenti se c'è completo mi pare che siamo quattro ziri. Comunque quando vai a seggia ti porta lì, di solito stanno lì, stanno a sentire, già li senti bene. Ah sì, 58.00. È rosa, sì. Ma va con un passaggio là, vai, ti ascolto, vai. Prova a farlo. Dammi un attimo di tempo. Vai, vai. Hola, hola. Capito? Però di nuovo preso una mazza.

Che microfono è il Mobico sto usando? L'altro Mobico 40. Ah, è il mio? Sì, il microfono è tuo, l'ho modificato, però ce l'hanno le braccia di Mario. Ah, cara gara. Riesco a tirarti fuori pulito, però sì, bassino. Va bene, aspetta, con la macchina. Fammi sentire il mio lo voglio tranquillo, quindi ti porto la capsula. Eccomi qua, rieccomi. A tu, a Torello. Sì. Ti devo portare una capsula a provare. Sì, ma devo modificare tutto quel microfono per farlo funzionare. Devo liberare l'up-down che non mi serve, è stato, perché sulla c'ho capito la roba. Ma per il mio apparato? La preghiera. Come fai a mettere sopra la doccia il microfono? Perché si attacca per la doccia voi? Allora, io voglio il filo a no. Va bene, cosa so che fare? Ma prima non c'è ancora. Ehi, abbaccia la roba come ci facciamo in tutti oggi, abbaccia. Sì, Mario. Aspetta un attimo, ma guarda che qua... ho abbassato il microfono, senza vedere. Meglio vado così. No, solleva. Adesso dovrebbe andare bene. Ma non ho un pochettino qui, o sono modulate, se no non capisco niente qua. Allora, vediamo un po', sollevaremo un altro poco, così 4, 5, 6, 8, 10. No, adesso va bene qui, ma solo che qualche ignorante mi metterà portato ogni tanto. Forse quando parlo io non mi sente, forse per quello. Ah, ci girava. Ah, già si sente bene. Io voglio. Attenzione, l'amico da dove modula, K. Anche io, ciao Giuseppe, anche a te. Vai, prova, chiamalo. K di positivo, ciao Luca. E l'amico che modula da Alghero, avanti per una prova per Giuseppe Calvappa. Giuseppe, Santiago 8, la radio è buona, è discreta come radio HI. Com'è che arrivo lì? Interrogativo. Calvappa, qui arrivi 9:10 e la radio ti posso dare un 4:30, dai. Se riesci a procurare qui in mezzo punto mi arrivi radio 5 buona qui nella mia postazione. QSL. Luca, per caso alzare le voglie di qui? No, va bene, Pina, perlomeno, da me va bene. Non so, Gianni ha confermato che va bene anche per lui. Non so, Gianni, vai. Prova, Pina, là, là. 4, 5, 6, 9, 10. Sì, adesso è chiara, adesso è chiara. Prima stava strappando troppo. Adesso è al 100%, vai. Ha confermato, lascia tutto così, va bene. Roger, al centro, questo è il professional, questo l'ho operato poco e niente. Di solito sono affezionato a quello Casarizzo, Luca, all'altro. Ma si è spassato lineare, quindi adesso mi devo accontentare di questo. Certo, babasone. All'airbag. No, è il 440. No, ma dico, si è affezionato all'airbag. È Roger al centro, è quello. Ma ci va a capire. Per il trito. Gappa. Pina, ai Portigalli, sempre stai andando. E l'obite camaleontri che tracchi spugli di soda, attieto Portigalli, se cucci la stazione più bella del mondo, e operatore brutto e feo. Giuseppe, una volta c'era il Portogallo e Pina gli ha detto qui che c'è Portigalli che sta chiamando. Sono compiaggio di dare un litro e risato. Ripetetemi il diciamo il nominativo dell'amico, perché io quindi ho capito 6 o 7, Pina, Bina, Bim Bum, Bam Bum, Bam Bam Bam, e mi potete sempre per cortinezza, Pierangelo, no, no. Pierangelo, via. No, no, Pierangelo, D'Artagnan. Ok, Giuseppe. È un vecchio, vabbè, che ha voluto di Alghero, mitico Pierangelo, va. Se lo conosci, guarda, sui lavori, troppo in gamba. Ci sarei dovuto essere stasera per caricare dai nostri clienti e niente di strano che magari lui, vabbè, io Alghero lo conosco come le mie tasche, perché tra Alghero e Lazzaretto ci ho passato la mia pagionezza campeggiando, quindi non ad Alghero, Pertini, a Lazzaretto, Capocaccia, Tramarini e quelle zone lì di sicuro non mi perdo, però Alghero diciamo altrettanto. Allora, Pierangelo e Saffarese in Chiavi, sono di Capice a 2 metri alla Carisi. Monta che tramonta. Vai Pina, è la tua, dimmi se Saffarese in Chiavi. Montanegra sei stato in campeggio. Come Pina, dimmi. A Montanegra sei stato in campeggio, interrogativo. Guarda, con le parti le ho girate tutte, però posso dirti che la meta migliore per noi, perlomeno per noi, la grezzetta con cui uscivo io ai tempi, diciamo, tempi d'oro, dai, ti parlo di 15-16 anni, era tra Mariglio e Lazzaretto, K. Roger al centro, la Mariglio e Lazzaretto andavo però con la famiglia così, la domenica, il sabato, giorni di festa, però ho fatto campeggio, ho fatto 10 anni di campeggio, lì a Punta Negra, il Rosso, una meraviglia, guarda, e questo è già, l'ho preso 15, oltre 15 anni fa. Non so se ti ricordi il baretto che si faceva in canne e di legno lì a Lazzaretto, che allora mi pare, adesso non mi ricordo se era Andrea o chi che lo teneva in gestione. Ma mi pare Gavino, se non mi sbaglio. Lì a Lazzaretto c'era Gavino e... Aspetta, Gavino e il fratello. Sì, capa, dai, io ti parlo, io come ne ho 48 adesso di anni, era, quindi qualcosa mi sfugge ogni tanto, però mi ricordi quando vado da quelle parti sono diciamo come se avessi campeggiato ieri. Roger, accetta, io ho capito, guarda. Mi ricordi quelli nel periodo di loro, guarda, e facevo di solito 50 giorni di campeggio, ma una meraviglia, e c'avevo baracchino, c'avevo anche il permesso al sindaco, all'assessore e via, quindi facevo anche servizio radio al vero. Capa di positivo, quindi tu sei un perno portante lì nella zona di Alghero, Alghero, Cortiglia, Capocaccia e quelli zone lì. Mannaggia, avendoti conosciuto prima magari mi sarei entrato anch'io nel giro dei viziosi qui. Roger acceso, Roger. Va bene, facciamo girare, Gianni per te. È stato veramente un piacere sentirti, ero anche preoccupato, poi non sta bene, non si è più fatto sentire, chiedevo anche a come si chiama, però mi dicevano sempre che non ti sentiva. Non mi sentivano, perché guarda, ogni tanto accendevo sul 21, non c'era nessuno. Allora me ne andavo lì all'altra parte e poi adesso ho trovato sul canale 10, cioè qua, via Luca, via Gianni, pensi che è qua a E ma noi ci spostiamo ogni tanto, fa una spazzolata, no, così ci trovi. A volte ci dobbiamo spostare per forza perché c'è un importantista che ci segue. Se poi noi ci spostiamo nel canaria fa, non ci segue più. Quindi oramai lo sappiamo. O ce ne andiamo a spostare un alfa, oppure spaziamo le cariche. È 19, quello di mezzo, 19:20. Sì, 19 alfa, sì. 10 kHz spostati per intendersi. Ho capito, sì. Ma adesso non lo so, faccio il... dopo me la segno con la frequenza che hai visto. Non è tanto ci spostiamo lì, oppure stiamo sull'uno. Tu fai una spazzolata, già ci trovi, perché siamo di sera qua, di solito adesso stiamo sul 10. Sempre ammesso che non ci rompano le scarpe. No, c'è dal centro, ma deve essere sempre quella famosa portante a Caino. No, questa qui è una portantina, disturba solo a Pierpaolo e a cose, Antonio perché è vicino. Però per far modulare loro anche tranquilli, ma non farli incalzare, allora ci spostiamo, capito? È un rognoso, veramente. Roger al centro, rogerissimo. Luca, a te. Chi è che c'era rimasto? Giuseppe. E l'altro, chi era? Falchetto sono. Ah, Falchetto, già ti ascolto, non ti preoccupare. Falchetto, sì, commentativo, interrogativo. Ma passaggio. 4, 5, 9, 10, 15. Santiago 1 e Radio 3, ti posso dare, dai. Addirittura, dove sei, che sono assente? All'ippodromo sono, dove corrono i cavalli, l'ippodromo. Lui è sull'albero, Pierà, è sull'albero, è qualche sotto. Pierangelo, non Pierangelo. Pierangelo. Io, a te. Dimmi, Pierà. Piante la c'hai? No, io ho bastone di 70 centimetri. Ecco per quello, perché qua io ti dicevo Santiago 7 e la radio è buona. Di radio quanto mi dai fino? Ho una 3, dai su, mezza va bene, in quanto le altre sono super 5. Cappa, dai, già va bene così, mira, va bene, riprendi e fai girare. Luca, caduto sì. Luca è andato a mangiare, riprendi Gianni. Tu che cosa ti stai facendo l'apparato? Non ho capito. Ho detto io, mattiniera ancora sia l'apparato. Sì, no, adesso stamattina mi sto guardando un programma. Non sto modulando. Qualche volta lì me ne vado sui 4:30, ma ogni tanto mi faccio una chiacchierata e poi spengo tutto. E con che cosa va a piloti con la mano? Sì, no, io fino a 10 giorni fa sapevo il filare, adesso ho attaccato la mano, ma solo che perdo parecchio, in quanto col filare 9:10, 9:20, anche 9:40. Ho la mano, va intorno ai 9, 9:05. È davvero un attesto. Ma devi accordare, va. Sì, ma questo c'è l'automatico, l'accordatore. No, non è che va bene. Lì, quando ti fai vedere il segnale rosso, allora parli tranquillamente. 9 già cominci a farti sentire di meno. No, beh, già ti sento bene lo stesso, dai. Se di meno vuoi Santiago 2, Santiago 3, ma 9 è un bel segnale lo stesso. Avanti Giuseppe, alzi Falchetto, avanti, poi fai girare. Gappa Roccio, vai, Gappa di Roccio. Tu dove abiti proprio, Alghero, ma che zona, però? All'ingresso l'Alghero, passato l'Olmedo. Cava, già va bene, dai, riprendi, fai girare, oppure Giuseppe, riprendi. Ho 400 metri e vedi l'antenna mia. K di positivo e l'amico Dalghero, diciamo che sei entrando dal Olmedo, dovresti essere in zona Ruscello, grosso modo, perché lì già comincia a essere abitato, No, negativo. Tu dopo il Ruscello e direttamente al primo semaforo di Alghero. Primo semaforo. Anzi di andare dritto per Alghero, no, gira a destra, il primo palazzo è il mio, si vede l'antenna. Se vedete il palo è più 7 di antenna. Cappa di positivo, e dove c'è il campetto di calcio, vai, dove hanno fatto quel campettino di calcio e appena più avanti c'è il tipo che vende l'acqua, se non mi ricordo male. Esatto, di fronte a quello che vende l'acqua, che è io. Cappa di positivo, e ci passo quasi ogni giorno lì quando scendo e quando si va da Alghero. Una buona piazza comunque Alghero, brava gente, niente, ci si diverte, ci si trova con gli amici e via, dai. Avanti, chi c'era? Luca o Gianni, riprendete. Riprendi Luca, Luca mi sa che ancora il computer. Probabile della Maria. Dimmi una cosa Gianni, io l'ho sentito stasera, però poi l'ho perso un attimino di vista, ma è entrato? Sì, è entrato, io ho fatto il break, poi è entrato lui, io non lo potevo, mi ha chiamato, non lo potevo rispondere perché mi stavo infilando il pigiama, mi stavo cambiando, là. E poi l'ho chiamato e non ha risposto, non lo so. Cappa di positivo, il doppio room, eri nudo nudo quando ti ha chiamato in vela. Ma per la verità appetto nudo, perché il pantalone me ne avevo già infilato, mi devo infilare la parte di sopra. Cala, andiamo qui, così è più, diciamo, che accettabile, dai, e la cosa. Il franchetto che sta nella zona dell'ippodromo è sempre qui tra noi. Positivo, dai. Allora vi saluto, dai, che domani si trabacca. Io saluto a te, Giuseppe, saluto l'amico di Alghero, ben sentito. Saluto a Gianni, doppio ru, dai, aspetto a voi per i saluti e QRT da parte di Falchetto, dai. Ciao Falche, buon corretti, ci sentiamo, buonanotte, avanti Giuseppe. Grazie Gianni, ciao Falche, buon QRT, buon trabacco per domani e mi raccomando, non staccarti troppo, K di positivo. Avanti l'amico Valghero per Falchetto, K. Abbassa appena appena che sei fischio. Però te l'accetto, ciao Falchetto, buon tutto, ma ci sentiamo alle prossime, a te Gianni. Io dopo che torno dal lavoro mi metto comodo a casa, metto un bel pigiamo, è caldo, oggi è giubilato di leva, di Cappa, riprendo, ciao ciao di nuovo, ciao ciao, buon anno a tutti. Ciao ciao di nuovo. Gianni, io ho ripreso, ma giusto poco fa perché non mi sono, cioè non mi voleva arrendere, però mi sta un po' scocciando questa storia qui. Io ho cenato col portatile in cucina, no? E sino a, io quanto ci sarò qui, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. E quel segnalone là non mi mollava in nessuna maniera, però se continua così io prendo e sbaracco mezzo mondo da qua. Dopo tutto quello che ho fatto ci manca solo che mi accolli questa cosa qui la sera per 3 ore, insomma, e anche una presa per i fondelli. Ma tu l'hai fatto il giro con portatile per vedere dov'è? Volevo farlo, però stava diluviando già. Allora hai fatto un bel notissimo. Vabbè, una volta che lo fa, quando c'è bel tempo, te lo fai un giro. e controlli. Se tu hai, per dire, il coso che sia in quel punto lì, ne stacchi l'antenna e lo lasci senza antenna e vedi il segnale quanto ti arriva. Se il segnale è forte anche senza antenna, è lo so, devo valutare bene, perché guarda che ti prende male quelle, sembra come una di quelle litanie strane che si usavano tanto tempo fa, no? La fateci di gabbo. Sì, ma l'ho sentito ieri, anche oggi quando lo stai facendo io rapporto dottore, se lo sentivo benissimo. Cambia notte addirittura, se per dire una presa, fa solo una cosa del genere, capito? Tipo un alternato. K, sembra un qualcosa che sta trasmettendo dati. E cambia notte. Infatti, guarda, non lo so, è già due giorni che ho questo segnalone qui dentro casa, non lo so, vediamo domani, poi sabato trarrò le giuste conclusioni, Gianni. Mi dirà Pinaccio, io credo con lo stesso problema, Pinaccio. Roger, tu sei, guarda, io tempo indietro, era una cosa pazzesca a me, adesso, oggi non ce l'ho. Perlomeno ho già un po' di tempo che spara che non sia qualche caricando qualche alimentatore di macchine, quelle da corsa, quelle macchinette da corsa. Cappa, io addirittura sapete cosa stavo pensando? No? Addirittura stavo pensando a qualche antifurto inserito qui di macchina, qui ma per forza di cosa deve essere qui sotto casa o in questa via, perché non è possibile che io abbia un segnale così forte. Se vuole l'amico D'Aglino io glielo posso anche far sentire per farsi un'idea, perché l'ho registrato. Prova a vedere. Papà, dammi 20 secondi e vado a prendere il telefonino. Quel sede. Allora sai cos'era? Qua c'era una macchinetta, quelle macchinette che vanno grosso modo in queste frequenze qua, pilotate o già. E quello un giorno mi sono messo, ho caricato, deve essere, le ho mandato in tilt e non mi hanno più, ogni tanto ho caricato, e deve essere, si sono truffati, deve essere, me le mandavo in tilt. Ah. E l'osere, perché grosso modo, mi pare che lo trovavo circa sul 28, poi in diverse frequenze, caricavo, e molto probabilmente li mandavo in tilt. Carica vi mandavi così? Rosa e Castichina, perché una l'ho cassata vicino a casa mia, e quando caricavano una caricabatterie, però non il caricabatterie, più che altro era la frequenza che servivano queste macchine piccole, come cacchio si chiama? Prototipi. Io ho capito, quelle che fanno le gare, i capitani UV. Però c'era il centro, su quelle. Eccolo, gli ho detto, guarda, non mandare la macchina fuori, perché se parlo io, la macchina può farsi danno. Vagava. E quando correvo al quadrato già c'era quello che si divertiva a farne uscire fuori strada. Ci sono, E questo qua, molto probabilmente era lui, che dava un rumoraccio, ma un rumoraccio insopportabile. Avanti Giuseppe. Occhio, vi avviso che è abbastanza... che è abbastanza fastidioso come rumore, poi regolatevelo voi.